Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Possiamo tornare là davanti, dove Andrea Dovizioso percorre l'ultima curva. Andrea Dovizioso, Dovi Power, Dovi Power, Dovi Power. Ma ce l'abbiamo fatta, cioè qualcosa di il sogno di tutti, vincere al Mugello in qualsiasi classe, in MotoGP è ancora più difficile. Tutti piangono, c'è un motivo perché tutti piangono quando vincono. Tanto pure tu, dai. È talmente complicato, c'è talmente tanto stress e pressione che quando succede, wow. Oggi era difficile, incredibile, non me lo aspettavo. Aspettavo Valentino e anche Mark. I Johan, però alla fine Andrea è stato un gran livello. Anche Petrucci mi ha sorpreso tanto, perché quando mi ha passato mi ha costato. Ho provato a fatta di 6 giri di andare per Andrea, però hoy non era il dia. È stata una gara lunghissima, difficile, ancora non ci credo tantissimo. Ho guardato il maxi schermo nel giro di diciamo d'onore, ho guardato, ho detto ma sono terzo. Queste le voci della domenica tricolore del Mugello. Prima di tutto vi do i contatti per rispondere alla nostra convocazione 80024 0024 per chiamare e intervenire in diretta. Vogliamo sapere, perché non abbiamo ancora capito, perché a Cardiff è finita così, quindi chiamatevi, prenotate e intervenite, oppure 349-238-6666, sms e whatsapp. In questo concentrato di emozioni che è questa domenica, ci siamo svegliati con sulla pelle ancora la delusione per la notte di Cardiff, poi le vicende drammatiche di cui avete sentito parlare e continuerete a sentir parlare anche dopo questa trasmissione, con uno speciale dalle 19 alle 20, vicende di Londra, di Torino, di cui parleremo anche noi perché attraversano trasversalmente anche il mondo dello sport. Oggi però l'apertura la dedichiamo al sorriso, carissimo Carlo, alla domenica sì, tutta italiana del Mugello. Giusto per alleggerire un po'. Per assaggiare un cucchiaino di zucchero prima di parlare di quanto è successo ieri sera. Io voglio capire perché è successo. Tu che sei stato testimone oculare, infatti, della sparizione di una squadra meravigliosa. Giovanni Capuano è qui insonne perché è di ritorno da Cardiff. Sì, come ritorno abbastanza complicato. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Robby. Ciao Giovanni, ciao Carlo, ciao. Un saluto a tutti. Allora, oggi ciao. Domenica tutta italiana del Mugello, Dovizioso e la Ducati primi nella MotoGP con anche Petrucci sul podio, Mattia Pasini primo nella Moto2 con anche Morbidelli sul podio, Andrea Migno primo nella Moto3 e prima vittoria della carriera con Di Giannantonio sul podio. Non so cosa potevamo chiedere di più, Roberto? Niente, il Made in Italy nella pista più bella del mondo. E poi il rosso, dopo Monte Carlo con la Formula 1, è il rosso di Ducati. Prova di forza della casa bolognese con un Dovizioso che si è meritato ampiamente questa vittoria. Però anche il podio di Petrucci, terzo, ma non dimentichiamoci di Bautista, quinto, Pirro, il collaudatore nono, Lorenzo ottavo. Quindi la Ducati ha fatto vedere che c'è. Era ha vinto solo ovvio, perché ha il motore più veloce del rettilineo. Dai, io la butto lì così. No, l'unico che non ha fatto vedere che la Ducati c'è è stato il solito Lorenzo. Ottavo. Retrovie, retroguardie. Anche se all'inizio ci ho un po' illuso, perché è partito veramente veloce come sa fare lui, però poi quando gli altri sono scesi non ha retto. Probabilmente questa moto, che comunque va guidata un po' di forza e lui non riesce ancora ad adattarsi perché il suo stile è un altro, e ci mette del suo, ha provato, cioè fatto vedere, però poi non ha tenuto. Ci ha illuso anche Valentino, perché all'inizio, ragazzi, che partenza che ha fatto, se pensiamo come era messo. Sì, i primi tre giri si sono menati come dei fabbri, come se fossimo alle ultime curve, è stata poi si sono un po' calmati. Sì. No, anche perché se andavano avanti così non sarebbero arrivati, diciamo no, la verità. Hai ragione Giovanni, era un ritmo troppo elevato e ci sarebbero stati un po' di problemi, cadute o casini, chiamiamoli così. Però è stata veramente una bella gara. Sottolinea che Honda è un po' in crisi, non funziona con le Michelin, ma anche con un'erogazione. Ho sentito dire, ho parlato un po', che faticano a mettere a terra i cavalli. Non è crisi Honda, parliamoci chiaro. Però abbiamo visto che Honda è molto indietro. Marquez non è riuscito questa volta a metterci la sua pezza. Poi peccato per Pedrosa che si è preso con Craccio. Si sono eliminate due Honda a vicenda. Però è il momento di parlare in Dovizioso perché se lo merita. Avete visto quanto giallo c'era sotto il podio. Tutti quanti gli vogliono bene. E quindi quando arriva una vittoria sua e di Ducati, alla fine sono comunque contenti tutti. Sì, questo sì, da sì, dire. Siamo tutti contenti noi italiani. Certo. Lui l'ha fatto notare. Ha detto sì. Vedo che qui sono da tutto siete giallo, però vi ringrazio. L'avete presa bene, vi ringrazio tutti quanti per la sportività, ma io credo che anche quelli che portavano vesselli gialli oggi fossero contenti per la vittoria di Dovizioso. Contenti o un pizzico delusi? Perché insomma Valentino giù dal podio al Mugello in teoria è un risultato deludente. La domanda è quanto ha pesato il problema fisico che aveva sulla corsa di oggi di Valentino Rovi? Sulla distanza, la metà gara in poi, sì, a livello di affaticamento, anche lui faceva segno alle gambe quando ha finito, cioè comunque non ce l'ha fatta tenere quel ritmo. Vignales era un osso duro. Però il rettilineo le prendeva anche da Vignales, Valentino. Sì. Poi dopo lui staccava 10 metri dopo e quindi meravigliosamente restava davanti. Esatto. Però dava l'idea di essere meno veloce. Sì, e comunque sai cos'è? Che da quando è caduto nel campo da cross non si è più allenato, sono pochi giorni, però ai loro livelli così esasperati e alla sua età comunque accusi, cioè lo senti, questo fa differenza. Però c'è stato anche un po' di allarmismo, come abbiamo detto sempre, Valentino non ci sarà, invece alla fine era una normalissima caduta come accade sempre in un campo da cross. Poi lui non è che vada forte forte in un campo da cross perché non è la sua specialità, quindi cade, ma cade anche a bassa velocità, è normale amministrazione. Però c'è da dire che ci ha messo del suo. Ma avete visto, prima fila durante le prove, quindi quello era Valentino, sul giro secco, però poi sulla tenuta, gara, probabilmente ci ha preso, sì. Ricordiamo, nel racing team di tutti i convocati del venerdì, ci ha preso Leo Turrini, che ti ricordi, tanto per cambiare, ci ha preso perché ha detto, mi piacerebbe se Valentino ripetesse il risultato di quella volta in cui Schumacher, senza che la cosa fosse pubblica, corse con una costola fratturata e arrivò quarto. Stesso piazzamento di Rossi. È vero. Ricordi? Poi sì, è vero. E nelle moto ci sono casi più eclatanti, Capirossi ha corso con una mano rotta. Una settimana dopo, neanche con la clavicola rotta, è tornato in pista Lorenzo e ha fatto comunque un buon risultato. Nelle moto è abbastanza normale questo. E Valentino, se vuole lottare per il campionato, però purtroppo questi sono punti regalati. La diamo alla classifica. Allora, Vignales 105, Dovizioso 79, Rossi 75, Pedrosa con la caduta quarto 72, Marquez 68. Forse la domanda della domenica è se Dovizioso lo dobbiamo considerare in corsa. Guarda, dobbiamo accontentarci di exploit qua e là. Purtroppo di exploit, ma non tanto per colpa sua, per una Ducati che su certe piste funziona e certe no. Ducati, l'abbiamo sempre detto, che va molto forte, però fatica a avere una prestazione costante su tutte le piste. E quindi poi c'è l'incognita Michelin. Purtroppo la Ducati non la vedo protagonista in un possibile campionato, un risultato a lungo termine. Certo fa piacere vedere che è lì, che battaglia, poi Dovizioso, ripeto, se lo merita. Però non è ancora una Ducati da mondiale, è un affare per Yamaha. Oggi poi assenti i due yamachisti, Zarco e Folger, sono stati dietro. Ma Mugello è una pista molto difficile, tecnica, è una pista molto impegnativa e quindi le rookie quando vanno lì non riescono, faticano a fare subito il risultato. Quindi è abbastanza normale non vederli davanti i protagonisti. Però aspettiamo perché c'è Spagna, ci sono delle piste di nuovo veloci, molto tra due settimane su. In Spagna si ribalta tutto. Grazie Roberto. Ciao Roby. Ciao Carlo, ciao Giovanni. Ciao Roberto. Ungaro, state rispondendo in tantissimi alla convocazione 800240024 oppure sms whatsapp 349-2386. Ma sulla moto o sulla Juventus? Sulla Juventus, perché noi stiamo cercando di capire dove è sparita la Juve. Ne leggo qualcuno, poi dopo il traffico abbiamo il direttore di Tutto Sport, Paolo De Paola, e parliamo di quella prima pagina che ha fatto molto discutere. Scrive un amico: sono felice che la Juve abbia perso, così verrà allungato il contratto al Vate di Livorno. Il problema della Juve è che ha Higuain e Allegri. Poi ancora: siete stati troppo ottimisti sulla Juventus, avete sottovalutato il Real Madrid, chiamate quel giornalista che ai vostri microfoni ha detto categoricamente che la Juventus avrebbe vinto la Coppa dei Campioni. Un altro che scrive: da sportivo mi sono divertito nonostante la Juve abbia meritatamente perso, Allegri deve rimanere un ultimo anno. E poi c'è chi ricorda che davamo Bale sicuro in campo perché si giocava a Cardiff. Insomma, aspettiamo di sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Traffico, arriva anche più Luigi Pardo e apriamo la grande pagina dedicata alla sparizione della Juventus a Cardiff. Convocati. Tutti convocati. Arriva anche Carvajal. Cristiano Ronaldo prova, rete. Cristiano Ronaldo ha colpito, incredibile. Real in vantaggio. Real in vantaggio. Bonucci verso Alessandro, Higuain sponda, Mandžukić prova, rete, rete incredibile, rovesciata fantastica, beffata Lamas, 1-1, rete incredibile, Casemiro prova da lontano, rete, forse con una leggera deviazione, beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Ancora verso Modric, sul fondo, riesce a metterla in mezzo, Ronaldo, rete! Cristiano Ronaldo sbuca come un fantasma alle spalle di tutti, incredibile, 3-1. Marcelo prova a metterla in mezzo, all'indietro, e c'è il gol di Asensio! Pesante. Trionfo Real Madrid. Pesante questo 4-1, Sandro. La squadra ha giocato un bellissimo primo tempo, spingendo molto sull'acceleratore, subendo gol nell'unica occasione dove gli abbiamo concesso una ripartenza. Secondo tempo abbiamo passato un quarto d'ora abbastanza in sofferenza e poi abbiamo preso questo gol su una deviazione, lì abbiamo mollato mentalmente e invece bisognava rimanere dentro la partita a costo di difendere con le unghie e con i denti per poi cercare di riaprirla nella parte finale. Invece così non è stato. Ragazzi, è solamente che dire grazie. 800 24 00 24. Adesso vi scateniamo, apriamo i telefoni e dovete dirci dov'è finita la Juventus ieri sera. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, adesso devi dire tu che eri presente in loco. Ciao, Pier. Sì, adesso ciao, ve lo spiego, l'abbiamo cercata anche l'intorno nei pub, no scherzo. Allora, Paolo De Paola si scusa, avevamo l'appuntamento non può, riunione improvvisa Tutto Sport. Beh, però per lui parla l'editoriale di oggi, adesso ve ne leggo un paio di passaggi. Pierino, che è successo ieri alla Juve? Ma... Tanti cercano una spiegazione logica, Pierluigi, ma la verità è che comunque quella che ha giocato il secondo tempo non era la Juventus, erano 11 giocatori con la loro maglia. Forse lo era, con tutti i limiti che ha la Juve. Non esiste spiegazione. Sì, forse abbiamo, mi ci metto anch'io, sottovalutato il Real Madrid, nel senso che abbiamo pensato che il Real Madrid fosse in qualche modo una squadra normale, non lo è. Probabilmente è una squadra che in certi momenti, e questo lo dico subito, in qualche modo cambia anche il percepito dell'eliminazione del Napoli, perché è vero che erano altri tempi, è vero che era febbraio-marzo e probabilmente il Real di oggi è un'altra cosa, però insomma comunque sta di fatto che il Napoli aveva messo in difficoltà, anche se ha perso 6-2 nelle due partite, una squadra che in finale ha vinto con facilità disarmante. Insieme al Bayern è la squadra che l'ha messa di gioco più sotto, almeno come arco temporale. Il Bayern, diciamo che certo. Forse il Bayern si era qualificato e poi è successo quello che succede tutti gli anni. Chi vince la Champions c'ha un bonus. Chiaro. No, ma ieri seguivo, Pier, il tuo tiki-taka prepartita e avete mostrato l'arrivo dei pullman dei giocatori. Sì. Hai fatto l'ufficio faccia esatto. come andava fatto. Quelli della Juventus erano contratti, ma compresi i senatori, erano contratti in una maniera impressionante. Cioè lo stesso Dani Alves, che ha giocato 30 finali, era stravolto dalla tensione. Quelli del Real, per quelli del Real Madrid, pure vi garantisco che Dani Alves lì, la sera prima nella rifinitura era uno show continuo, balletti, ragazzi, danze, urla, non lo so, applausi con i compagni, grida. Cronaca, Gio. Vi leggo Paolo De Paola oggi, editoriale di Tutto Sport, e vi convoco ancora, 800 24 00 24, abbiamo già Nicola, Alessandro, Federico che coinvolgiamo immediatamente. Titolo: troppa sicurezza, rammollito tutti, svolgimento. Non può una squadra con un obiettivo così chiaro e ambizioso come vincere la Champions arrivare a questo appuntamento in simili condizioni fisiche e mentali, innanzitutto stanca. Il salto di qualità, caro Allegri, si fa in partite come questa. Fuori dalle mura del campionato della Coppa Italia era importante dare un segnale forte in Europa, ma se l'ambiente respira un'aria di leggerezza e si gongola nei selfie, difficilmente si trova la giusta concentrazione e la fame necessaria per centrare l'obiettivo. Mi sembra analisi del direttore di Tutto Sport. Mi sembra eccessivo. Nel senso che, per carità, la partita di ieri è stata, nel secondo tempo è stata un massacro sportivo, diciamocelo apertamente. Nel primo tempo è stata una partita alla pari, nella quale anzi io avevo avuto la sensazione che la Juve avesse qualcosa in più. In cui era partita, quindi, molto bene. Detto questo, molto bene, poi ha preso il gol. È meritatissimo, è una finale completamente diversa da quella di due anni fa. È un po' l'opposto della finale di due anni fa. Due anni fa la Juve era arrivata da sfavorita, aveva fatto un'ottima figura, aveva perso, poi Barcellona ha meritato di vincere, però la Juve ha fatto un'ottima partita. Ieri no, ieri doveva essere una finale alla pari, sembrava una finale alla pari e non lo è stata. Ieri non è una sconfitta a testa alta, come avevamo detto dopo Berlino. No. Dai, 800 24 00 24, il vostro momento, Nicola. Pronto? Eccoci. Allora, da Napoli un paio di cose. Vai, Nicola. Allora, Napoli Real Madrid 2-4-1. Sì. Questa è una considerazione facilmente riparto. Sistema di gioco. Quindi il Real Madrid è più forte delle italiane. Se vogliamo arrivare alla sintesi, no? Ci vogliamo se vogliamo dubbio, farci male, prego Nicola. Senza dubbio. Sistema di gioco. Quel sistema di gioco che è andato molto bene alla Juve, purtroppo non ha i giocatori adatti in Europa. Due mediani forti, due esterni che non possono essere Mandžukić ed è Alves o Cuadrado, che devono marcare e proporsi contro un centrocampo. Sì, però perdonami Nicola, Barcellona è in Europa, mi risulta. Anche Montecarlo, anche Oporto, possiamo buttare via tutto. Ha fatto un cammino io capisco tutto, ma la Juventus ha fatto un cammino straordinario. Poi sappiamo tutti come abbia preso 3 gol in tutta la Champions League, 4 ieri sera. È chiaro che non era la vera Juventus, quello che ha sorpreso tutti. C'è da capire cosa è successo in quell'intervallo. Esatto, ieri sera non era la squadra solida, cazzuta, che abbiamo imparato a conoscere lungo tutta la stagione. E questo è inspiegabile. Pier. Sì, ma infatti poi è chiaro che la partita di ieri faccia opinione, cioè ci sta che De Paola scriva quello che ha scritto, che l'ascoltatore dica quello che ha detto, ci mancherebbe altro, è vero, perché la partita di ieri comunque è ovvio che deve anche fare opinione, nel senso che comunque finale di Champions cambia se la giochi bene o se la giochi male. La Juve l'ha giocata malissimo, nel secondo tempo soprattutto, e quindi è giusto che ci siano delle critiche. Da qui a dire che non si può giocare così, che quel modulo non va bene in Europa, cioè la Juve che in 180 minuti non prende gol contro il Barcellona è la stessa, gioca sempre con Mandžukić, con i due centrocampisti. Volevo precisare, il direttore di Tutto Sport non è che non ha il coraggio di venire in radio, oggi anzi era molto contento di intervenire. In questo momento c'è una riunione che si è prolungata e non può, no, perché c'è chi pensa che insomma uno perché dirige Tutto Sport e la Juve perde 4-1 dal Real poi non intervenga. Alessandro, buongiorno, buon pomeriggio. Pronto? Sì, eccoci. Dai. Allora, innanzitutto sono d'accordo con Carlo, perché forse l'ascoltatore che ha chiamato un paio di minuti fa non ha visto le partite con Barcellona e Monaco giocate col 4-2-3-1. Però sono d'accordo anche che la Juve è arrivata stanchissima alla finale di Champions, perché poi le partite importanti le hanno dovute giocare sempre gli stessi giocatori, anche perché purtroppo si è fatto male Piazza e non c'era più una punta di ruolo dopo Barcellona, le due grandi partite, Cuadrado è scomparso perché ha fatto delle prestazioni è andato in calando, ieri sera è stato tra i peggiori. No, ma è andato in calando dopo la partita dopo la partita a Torino col Barcellona. Dopo la partita di ritorno a Barcellona. Posso dirti, cioè, la stanchezza è una motivazione. Il Real Madrid stava benissimo, ha giocato probabilmente ieri sera la sua miglior partita stagionale, però la stanchezza non può essere l'unica ragione di una partita di questo tipo, perché per una finale di Champions League le energie anche fisiche le trovi. Sì, però forse, Pier, avevamo anche sottovalutato qualche segnale. Li abbiamo rimessi insieme, due gol presi dall'Atalanta 28 aprile, un gol dal Torino 6 maggio, un gol dal Monaco 9, 3 dalla Roma al 14, 2 punti in 3 partite. No, la Juve avesse forse noi avevamo ipotizzato tutto come una frenata controllata. In realtà sì, magari qualche segnale c'era. Io pensavo fosse una frenata controllata, ma in tanti. Però magari la partita di ieri in qualche modo dice delle cose diverse, anche se con tutto l'affetto e il rispetto e l'ammirazione per l'Atalanta o per il Torino, il Real Madrid è un'altra cosa, no? Quindi non lo so, il turnover Allegri l'ha fatto anche nella parte finale della stagione, anzi addirittura a Napoli si arrabbiarono perché fece turnover nella partita contro la Roma, e l'ha sempre fatto scientificamente, ne ha fatto di meno il Real Madrid che ha avuto comunque un campionato da lottare fino all'ultima giornata, quindi sì, è un assurdo pensare che sia un problema fisico. Ci sono delle volte delle partite, chiaramente la spiegazione c'è sempre e il campo ha sempre ragione. Quindi è una spiegazione più mentale che altro. Poi in realtà, perdonatemi, secondo me qualche cosa di tecnico c'è da dire anche in proiezione verso la prossima stagione. Ne stanno arrivando una marea di messaggi, proviamo a leggerne alcuni. Tutti avevate la convinzione che la Coppa fosse già sul pullman, ma la partita era tutta da giocare, forse basta dire che il Real era più forte. Poi la Juve doveva sostituire Dybala con Marchisio Rincone inizio secondo tempo, quando si vedeva che il centrocampo non reggeva più. Sì. O ancora, campionato e Coppa italiane non sono allenanti a pressioni di quel genere. Io non sono d'accordo perché, ripeto, faceva sempre la Serie A la Juventus e la Coppa Italia quando è andata a giocare a Barcellona. Bravo, Giovanni. Giocava in un altro campionato. Poi ancora c'era un messaggio interessante che non riesco a trovare, che sostanzialmente diceva: la Juve è quasi campione d'Europa, Dybala e Higuain sono quasi fuori classe, Allegri è quasi un grande allenatore, la differenza è che quelli dall'altra parte invece sono giocatori e squadre compiute. Paradossalmente, noi l'abbiamo sottolineato anche tante volte, Pierluigi lo sa benissimo, il fatto che comunque ci fosse grande fiducia, io mi sono anche un po' così spaventato della fiducia che ci fosse in questa trasferta, perché molti erano convinti che la Coppa, in parte è vero, forse è stato un errore di sì, sottovalutazione posso paradossale del Real Madrid. Posso contestare lo slogan storico della Juve che è diventato un marchio di fabbrica e oggi lo contesto a favore della Juve. Però è troppo comodo così, No, non è troppo comodo, io questa cosa la penso sempre. Io penso che la Roma, quando perse 7-1 a Manchester, tanto per fare un esempio, certamente fece una figura orrenda in quella partita di ritorno, ma all'andata aveva vinto e comunque certe emozioni è meglio provarle piuttosto che non provarle. Io sono dell'idea che il Napoli, anche se ha perso due partite contro il Real Madrid, delle cose le abbia fatte vedere al mondo. Cioè, io penso che non è che per forza il risultato abbia una sua... Lei è arrivata seconda in Europa quest'anno. Però vai a raccontarlo. Io oggi ho fatto il viaggio con tanti tifosi della Juve e gente che non ne può più di perdere le finali. Non ne può più. Non ne può più di perderle così come oggi. Non dimentichiamo che c'è più di mezza Italia che oggi è felice. Poi ne parliamo anche. Fa benissimo esserlo. Riusciamo a fare Federico prima della pausa. Dai, Federico. Ciao ragazzi, sono Federico. Vai. Sono di rientro dalla Cortina d'Obbiaco, la gara podistica. Sì, pensavamo da Cardiff. Prego. Volevo fare due considerazioni e volevo chiedere la vostra opinione. Allora, premesso che al netto del mezzo errore che ha fatto Buffon, perché prendere un gol da 30 metri in quella maniera mi sembra sia andato giù un po'. Non è stato perfetto. Ecco. E volevo chiedere, visto come si è svolta la gara, l'acquisto di Higuain, secondo voi, non è da rileggere, nel senso che in Serie A la Juve problemi a vista del campionato, anche senza Higuain non ce l'ha. E seconda cosa, la sconfitta di ieri non va interpretata solo come la sconfitta che la Juve ha trovato contro l'unica squadra che gli ha dato modo di fare un test probante, perché per carità il Barcellona è un bel attacco, per carità, dai, però, cioè adesso se vogliamo ridurre tutto, che ha fatto 59 partite contro avversari morbidi alla 60esima perché ha trovato quello forte, ne ha prese 4. Ma stiamo dicendo, così come ridurre la stagione di Higuain al fallimento di ieri, perché ieri Higuain ha fallito, lo dico senza se senza ma, secondo me sarebbe ingeneroso. Su Higuain un sospetto da un po' di tempo ce l'abbiamo, cioè che non sia esattamente l'uomo da partita delle grandi occasioni. Se guardiamo quello che è successo con la nazionale argentina, a livello di Coppa America, a livello di finale mondiale, quello che è successo col Napoli anche nel famoso rigore sbagliato con la Lazio in una partita dove ha fatto doppietta, cioè, è un fenomeno, Higuain è un fenomeno, magari rispetto ad altri ha qualcosa in meno nelle partite che cambiano la vita. Questo sospetto ce l'avevamo dopo ieri, e chiaramente la partita di ieri non fa altro che in qualche modo confermare. Ieri c'è sicuramente un indizio in più. Ci dobbiamo fermare un minuto. 800 24 00 24. Adesso sentiamo un tifoso doc della Juventus, però aspettiamo ancora anche voi. C'è chi dice che abbiamo omesso di raccontare per tutta la stagione che la Juve fuori casa ha vinto solo una partita contro le prime 8. E questa potrebbe essere una chiave di lettura. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Grande delusione, perché pensavamo di aver fatto tutto il necessario per poter arrivare a giocarci questa finale e poterla finalmente vincere. Poi ti lascia interdetto, ti lascia un po' a bocca aperta gli episodi sempre che non ne gira mai di uno bene. Ecco, quello dispiace. Gigi, vuoi mandare un messaggio a tutta questa marea di popolo bianco nero che è venuta qui a Cardiff? Non ce l'abbiamo fatta, purtroppo non sono stato neanche in grado, ecco, di poter regalare loro quello che meriterebbero, e questo per me è la più grossa sconfitta. Ci ha raggiunto Massimo Giletti, 800 24 00 24. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Ciao. Mi dite. Rapido, poi ampliamo il discorso. Che voto date a Buffon per ieri, Carlo? No, voto basso, ma come tutto. Voto a Buffon. Voto 5.5. 5.5. Pier? Mezzo. Sì. Massimo? No, per me Buffon non si dà un voto a Buffon per una partita. Però un paio di gol sono anche suoi, o no? No, suoi del tutto magari no. Suoi del tutto no. Però diciamo che non ha fatto il miracolo che ti aspetti da Buffon. Non è stato straordinario come altre volte. No, ma io sono curioso di chiedere a Massimo Giletti una cosa da tifoso juventino molto rapida. Se ieri, appena prima di addormentarti, ti sei dato una spiegazione che fosse un minimo logica del motivo per cui la Juventus è arrivata lì così e ha giocato così, o se l'hai trovata questa mattina dopo una notte insonne magari? No, l'ho vista prima della partita, cioè quando tu mandi in tribuna un giocatore che ha pagato 60-70 milioni in panchina. Noi abbiamo Rincon e... stai parlando di James Rodriguez, no? Finita, cioè a quei livelli altissimi per battere Real Madrid devi avere tutto dalla tua, anche quelle deviazioni incredibili di che dire su gol di Buffon, perché poi è facile parlare dopo, però insomma non ha avuto neanche in quel frangente un attimo di fortuna. Poi sì, però legarla agli episodi, perdonami Massimo, credo che dopo aver visto la partita di ieri è sbagliato. Gli episodi l'hanno visto tutti, il secondo tempo non c'era la Juve, però ti sto dicendo, se una squadra come Real Madrid manda in tribuna uno che ha pagato 65 milioni, io ho come ricambi Mina e Rincon, vuol dire che la strada per vincere sembra che arrivare secondi in questa Italia dove non vince mai nessuno da anni nulla, e grazie alla Juve, io mi rompo i coglioni perché vedo tutti i momenti adesso la Juve, Allegri incapace, non ha gestito il secondo tempo, io mi rompo i coglioni perché la Juventus, grazie alla Juventus, le squadre italiane il prossimo anno avranno una quarta in Coppa Campione. Sì, guarda, allora, io ti leggo alcuni messaggi, questi sono tifosi juventini, Massimo, si può andare in un ristorante da 100 euro, ma che figura fai se non hai soldi per pagare, via Allegri. Un altro, ieri la Juve ha giocato in 9, Zidane ha dominato Allegri. Ma io capisco, sto facendo una sintesi, juventino ci sia e si scateni dopo una finale e sbeffeggi, quello ci sta, siamo corretti e onesti. A livelli importanti, quando hai una squadra come Real Madrid, noi abbiamo battuto Barcellona, devi arrivare fisicamente perfetto. La Juve nel secondo tempo è crollata in 4-5 giocatori e purtroppo non è riuscita a vincere, tutto qua. Non è l'episodio in sé, però dico, anche l'episodio in sé che mette in difficoltà Buffon più del normale è un sintomo che purtroppo per vincere ci vuole tutto. Io credo che la sconfitta di ieri, Pier, nasconda in realtà delle spiegazioni che sono poi i limiti della rosa di quest'anno. Ad esempio, ieri Allegri si è girato, non aveva un centrocampista per cambiarla questa partita. Ed è due anni che lo cercano sul mercato e non lo trovano nemmeno, il grande nome. Non arriva nemmeno con il Barcellona. Possiamo trovare mille aspetti legati alla partita di ieri. Sicuramente il budget per Real Madrid è superiore rispetto a quello della Juve. Sicuramente no, va bene, però non possiamo metterci a parlare del fatturato. No, noi diciamo a Sarri tutto l'anno che sbaglia a parlare del fatturato per spiegare le sconfitte. Appunto, voglio dire, possiamo trovare mille valutazioni legate alla rosa, legate alla partita, legate alla condizione. La verità è che è una finale di Champions contro una grande squadra e, come diceva giustamente Massimo prima, non è che arrivare secondi della vita sia un'onta, un'eresia, una vergogna. Quindi questo è un dato di fatto. Poi è ovvio che, come detto, c'è quello slogan che è proprio uno slogan della Juve, che vincere è l'unica cosa che conta, ma la verità è che invece secondo me c'è una storia che uno prova a costruire, poi si arriva a un punto e quel punto lì può andare bene, ragazzi, può andare ma male. Non è questo il punto, chiaro? Il punto è il modo, perché da questa Juve non ti aspetti, certo, il modo, non il risultato, poi puoi, per carità, puoi perdere. C'era un pessimo secondo tempo. Ho capito, ma perché, perché scompari? Non sei più la Juventus nella partita più importante dell'anno? Perché il Barcellona non è stato il Barcellona a Torino contro la Juve? Perché succede? Perché è lo sport, perché è la vita. Onore al Madrid che ha vinto, onore ai tanti secondi. Oggi i tifosi della Juve si scoprono in questa condizione, ma è una condizione che Napoli e Roma vivono da anni, facendo un lavoro straordinario in campionato, ogni anno migliorando i propri traguardi. Sì, però oggi parliamo di una delusione cocente, Pier. Se no rimettiamo sulla puntata dopo Berlino, ma lì ci stava dopo Berlino dire a testa alta e tutto. Oggi è diverso. Ma però è chiaro, sì, che una delusione ovviamente c'è. Ma noi abbiamo avuto dei giocatori in attacco da quando si è rotto Piazza, e quindi sono più di due mesi. La rotazione nel nuovo modulo di Allegri non c'è mai stata, proprio per l'impossibilità di cambiarli. Quindi hanno giocato e l'avete visto che sono scomparsi. Higuain ha fatto tutte le partite, Mandzukic le ha fatte quasi tutte. Cioè gente che poi arriva agli ultimi 45 minuti con un Dybala che, per mille motivi, ieri non è mai stato quello che conosciamo. E a quel punto c'è stato il calo, e nella vita ci sta, i più forti hanno meritato di vincere. Ma tu sei d'accordo con quello che scrive oggi su Tutto Sport il direttore De Paola? Se l'ambiente respira un'aria di leggerezza e si gongola nei selfie, difficilmente si trova la giusta concentrazione e la fame necessaria per centrare l'obiettivo. L'immagine della Juve è quella del presidente Agnelli, che è sceso in campo, li ha abbracciati, mi ha detto ci vediamo il prossimo anno, carichiamo, non molliamo. Quella è l'immagine della Juve. Dopodiché credo che quest'anno, lo sanno benissimo, a centrocampo ci saranno acquisti importanti sia a centrocampo che davanti. Se vuoi competere a quel livello, perché la Juve sono in tre anni è arrivata due volte in finale, scusate, ma adesso noi stiamo celebrando una squadra come Real Madrid che se non c'era l'arbitraggio ingiusto, indecoroso, non sarebbe neanche arrivata alla finale perché sarebbe passato il Bayern. Il calcio è questo. Soprattutto il calcio delle coppe è questo. Cioè, non è che se tu adesso compri, come sicuramente la Juve comprerà dei grandi centrocampisti, l'investimento in Higuain non è un segreto. La Juve l'ha fatto proprio in prospettiva Champions League ed è stato un investimento, numeri alla mano, comunque, che ha funzionato. Però poi arrivi a una partita che è dentro fuori, che è legata comunque a logiche umane, dove può succedere che un giocatore sbagli partita. Quindi la Champions, se il calcio è liquido, lo sappiamo, la Champions è ancora più aleatoria. Detto questo, per carità, io non è che io ieri mi aspettavo che la Juve vincesse, la consideravo lievemente favorita. Ma aspettavo comunque una finale molto equilibrata, non c'è stata, e quindi questa è una notizia, non è che qui bisogna scappare dalla notizia. La notizia è che la Juve ieri ha deluso in maniera clamorosa, però da qui a arrivare a chissà quali, non sono stati i selfie o i balletti di Dani Alves che hanno fatto perdere la Coppa alla Juve, non scherziamo, è stata la prestazione di ieri nel secondo tempo che non è stata assolutamente all'altezza, e questa cosa forse neanche Allegri credo ci metteranno un po' a capirlo. Abbiamo il traffico, ringrazio Massimo Giletti. Ciao Massimo, grazie. Alla prossima. Poi ci sono Dario da Milano, Michele da Parma, 800 24 00 24. Andremo anche in Spagna, ci scrive un amico, chiedete a Filippo Maria Ricci cosa ne pensano a Madrid i detrattori di Zidane, glielo chiede. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Dai, leggo qualche messaggio, poi ci sono Dario e Michele. Vorrei solo capire, scrive un amico, cosa è successo nello spogliatoio. È inspiegabile che la Juve sia cambiata in questa maniera. Un altro, la Champions la vincono le squadre che giocano all'attacco e non come fa Allegri in contropiede. Poi arrivare secondo in 7 finali su 9 ci rende una barzelletta. La storia della Juve non lo merita. Questa cosa delle 7 finali su 9 delle 5 consecutive perse, ti dico, oggi era il tema totale, assoluto, sul volo di ritorno allora che fai, verso Milano. Che escono i quarti di finale, che è meglio. Però, che la Juve abbia un sortileggio legato alla Champions. Sì, ma non è il tema è che non temono il sortileggio, temono sia una questione di mentalità. Proprio. Ma no, mentalità, non è mentalità, sono squadre diverse, epoche diverse, è legato alle stelle del calcio. Quando giochi col Barcellona un quarto di finale, non è mica un'amichevole, è una partita altrettanto intensa, no? Cioè non è che nel quarto di finale uno gioca con Reggero, no, gioca pure il quarto di finale al Camp Nou, te lo giochi alla grande, quindi non è quello, ci sono delle tendenze storiche e la Juve sicuramente da questo punto di vista in Champions ha una andiamo dagli ascoltatori. Dai. Per quello che ti dico, che per il Real Madrid era l'ennesima finale, per la Juventus è un'ossessione, appunto. Ogni volta che ci arriva, anche con giocatori diversi, è un'ossessione, punto. Ma non diciamo panzane, non diciamo panzane. Il problema è ben inteso un altro. Sì. Quel termine non andava assolutamente pronunciato, ma neanche per ischerzo. L'ha detto anche Allegri. Ha portato una sfiga pazzesca, Cosmica. Una iella nera. Anzi, adesso vedo tuttora stormi di uccelli bianconeri come esuli pensieri nel vespero migrare. Dario da Milano, Dario. No, non l'ha presa benissimo. Dario, dai. Sì, Buonasera. Vai. Sì, volevo dire semplicemente questo. Io sono d'accordo con la... si percepiva dal volto dei giocatori della bianconeri ieri che sostanzialmente erano molto tesi, eccessivamente tesi. Si vedeva prima di entrare in campo, si vedeva anche dopo, e questo per chi ha fatto sport è evidente, si sa, taglia le gambe. Ragazzi, io ve lo dico. Venerdì ho assistito a tutto l'allenamento della Juventus e del Real Madrid, allenamento, insomma, quella cosa che fanno il giorno prima sul campo dove si fa la finale, e vi garantisco che se c'era una squadra di spirito leggero era la Juventus. Qualcuno l'abbiamo visto nella nostra vita, Pier. Sono d'accordo, ma non fa testo. Ieri, Pier, quando tu hai fatto vedere. Ragazzi, la Juve gioca dei grandi primi 20 minuti, poi sparisce ma sul primo gol. Fa niente, non è un problema di approccio. Secondo me, può essere invece un problema di approccio, perché gli occhi non mentono. È vero, io ho visto quelle facce ieri sera con Pierluigi Pardo che le commentava, e c'era chi diceva: beh, quelli del Real sono arrivati più stravaccati. Sì, ma certo, la Juve non è entrata male, appunto, non è. Non ha presentato male, ma può essere che sia stata bruciata nel corso della partita dalla tensione. Può essere che è una questione mentale, secondo me. Forse che facciamo ex post. È chiaro, Pierluigi. Che avremmo detto, per aver visto Real Madrid ha sottovalutato la partita, hai visto come entravano tranquilli in campo? Certo, erano belli concentrati. Cioè, questi segnali qui, ieri li commentavamo sia in Tiki-Taka News, che poi sono fermato a vedere il primo tempo con Sacchi, con Tacchinardi, con Paolo Rossi e gli altri. Cioè, alla fine era quella, nessuno ha certezze, no? Sicuramente i giocatori della Juve avevano più tensione e più concentrazione di quelli del Real, che ridevano e scherzavano entrando in campo. Però questo che vuol dire? Tante volte questo può essere positivo e tante volte può essere negativo. Poi conta il campo. Il campo ci dice che la Juve non ha approcciato male la partita, anzi, nel primo tempo, e anche, non mi ricordo chi diceva prima il discorso del gioco, in realtà nel primo tempo la Juve ha provato a fare la partita. Sì, sì. La Juve ha cominciato attaccando. Non buttava via un pallone. È il secondo tempo. Cioè, nel secondo tempo la Juve non è rientrata in campo. E il Real Madrid, sul 2-1, ha trovato un cinismo, una capacità di offendere, di chiudere la partita, e la Juve non ha reagito. Punto. Michele. Dai, Michele. Vabbè, buonasera. Vai. Io volevo tanto dire che, al di là delle espressioni dei giocatori, degli episodi sfortunati, la Juventus abbia fatto una campagna acquisti sbagliata, che era tendente più a indebolire i suoi avversari in campionato, Roma e Napoli, con Pjanic e Higuain, che prendere un giocatore o un paio di giocatori che effettivamente gli potessero servire per vincere la Champions. Cioè, parlare adesso, dispiace vedere anche giocatori così, perché voglio dire, è sempre una squadra italiana così. Ma c'è un abisso fra il nostro campionato e quello degli altri. Le nostre squadre sono troppo deboli e la Juventus non ha un termine di paragone con gli avversari. Il Barcellona gioca nello stesso campionato del Real Madrid. Esatto. È arrivato lì il cammino europeo della Juventus. Non dobbiamo dimenticarcelo. Non dobbiamo dimenticarci il cammino europeo della Juventus. Perché Aspetta, c'è Antonio da Roma. Antonio. Signori, a voi tutti buonasera. Buonasera anche a te. Vai, Antonio. Dai. Allora, ho visto la partita della Juventus, sì. E quindi la finale di ieri sera tra Juve e Real Madrid. È anche vero che la Juve contro il Real Madrid alcune volte ha perso, ma soltanto qualche volta ha vinto. Però voglio dire una cosa, ieri sera la Juventus ha giocato male per tutti i 90 minuti e ha incassato quei 4 gol. Quando ci sta una squadra che ha la mentalità vincente, in questo caso il Real Madrid, e poi soprattutto le squadre che ha allenato José Mourinho, sì. le partite si vincano. Io però credo, Antonio, che di Mourinho ci sia pochissimo in questo Real Madrid di Zidane. L'Inter l'ha allenata Mourinho e poi non ha più vinto. Non è che c'è questo effetto che dura negli anni. Allora, siamo sotto GR, Pier, però ti devo leggere questo messaggio perché mi ha fatto troppo ridere. Carissimo Pier, ieri ho quasi conquistato una donna, venerdì ho quasi ottenuto un lavoro, devo essere soddisfatto perché ci sono andato vicino? Hai 10 secondi per rispondere all'amico. Ma guarda, io nel calcio che noi abbracciamo, No, ma questo vale sempre. Mi rendo conto che oggi, detto a proposito della Juve, che ha fatto della mentalità del vincere, che è l'unica cosa che conta, può sembrare un'escusatio sbagliata. Io penso che ci siano dei passaggi nella vita, nel mondo dello sport, in cui chiaramente è meglio vincere, non c'è dubbio, ma comunque il percorso è un percorso che ti lascia qualcosa. Io penso che il secondo posto della Roma di quest'anno, che il secondo posto del Napoli dell'anno scorso e le due finali abbiano un valore. Pier, abbiamo il GR domani. Ci sentiamo domani, Pierluigi, ore 2. Invece, amici 14. Carissimi, 800 24 00 24. Bisognava fare un 90-95 minuti come abbiamo fatto i primi 50, ma soprattutto nei primi 50 magari chiudere in vantaggio, allora sarebbe stata un'altra partita. Ma così non è stato, è inutile stare a dire con i sì e con i ma, bisogna essere contenti di quello che abbiamo fatto. La vita ti dà la possibilità di poter riprovare l'anno prossimo e quindi con tutta la serenità e con la lucidità bisogna analizzare dove dobbiamo e possiamo migliorare la squadra, dove dobbiamo lavorare per quanto riguarda l'aspetto del gioco e l'aspetto della mentalità. Tutti convocati. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. convocati. I danni maggiori sono stati causati dai cocci di bottiglia, dalle bottiglie buttate per terra. È scoppiato proprio l'allarmismo e è uscita questa folla di corsa dalla piazza travolgendo più persone. Seduta sempre aperta sulla serata di ieri, 800 24 00 24. C'è ancora un'ora, chiamate, prenotatevi per intervenire. Dov'è finita la Juve? 349 238 6666, sms e whatsapp. Però una parentesi l'apriamo anche su quello che è successo ieri sera in piazza San Carlo. Il bilancio definitivo l'avete sentito nei GR: 1527 feriti, 3 in condizioni gravi, tra cui un bambino di 7 anni e mezzo, ma insomma confidiamo tutti che l'esito sia favorevole, sia quello che speriamo tutti. Saluto Tancredi Palmeri, ciao Tancredi. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno. Ieri era in piazza San Carlo, io non so che riflessione si può fare al di là che c'è un'inchiesta che stabilirà perché è successo e se qualcuno si è comportato in maniera irresponsabile. La riflessione è che forse dobbiamo ripensare questi grandi eventi di massa legati allo sport. Io vi racconto: 2 giorni a Cardiff di controlli continui, elicotteri, scanner, filtraggi, documenti. Ma guarda, posso partire da una domanda un po' più banale, ma il fattore scatenante io non l'ho ancora mica capito bene. Ma credo ci vorrà un po' a capirlo. Un pochino ci vuole effettivamente. Guarda, io vi posso dire, sono stato fino alle 3 di notte a girare, a fare sopralluoghi, a tentare di capire perché ero subito nato là in mezzo quando erano successe le cose. Ho parlato con vari testimoni e io ho sentito la testimonianza che avete mandato in onda. Avrò parlato, non so, con 30-40 testimoni diversi. Forse su 40 persone ho raccolto 36-37 versioni diverse, per cui oggettivamente non è facile trovare la prima causa. Del resto è l'origine del caos. Questa è l'origine del caos. Ognuno interpreta a suo modo. L'unica cosa su cui si possono incrociare i dati, perché sul fatto che un petardo abbia poi provocato la ressa, che sia caduta la balaustra e altro, non è sicuro, perché francamente non si è sentito il petardo, ma non tutti sono sicuri francamente di aver sentito un petardo. Alcuni hanno detto hanno sentito uno scoppio, ma devo dirvi c'erano anche, a un certo punto era tutto un crepitio e scoppio di bottiglie, molti mi dicevano certe cose, poi io non era nemmeno facile ovviamente parlare con dei testimoni tentando di costruire nel panico la loro versione, e spesso veniva fuori che mi raccontavano cose che erano successe dopo che erano successo, che era cominciata l'ondata di panico. La cosa che potrebbe essere stata, perché l'unico dato oggettivo è che c'è quella balaustra di protezione dell'accesso al parcheggio sotterraneo della piazza, che dobbiamo pensare come se fosse un parcheggio per la metro, praticamente. Quindi una che balaustra, è venuta giù. Scusate, un parcheggio, un accesso del metro che è venuta giù, esatto, con la balaustra esterna, e che è venuta giù in ferro battuto, ha fatto un tonfo, è successo circa al 70° della partita, un 4-5 minuti credo dopo che il Real Madrid avesse segnato il 3-1, e anche questo ha aggiunto assurdità, perché era la prima volta da pochi minuti a questa parte che la piazza fosse veramente silenziosa, non lo era mai stato, tranne un momento subito dopo il vantaggio del Real Madrid, per quindi alle volte c'è anche fatalità. C'è anche fatalità, sì, però ha ragione Giovanni quando dice che bisogna forse ripensare questi. Sì, in un momento come questo in cui siamo tutti ostaggio della paura, perché poi la verità è che oggi, ma è comprensibile, e ripeto, io sono reduce da 2 giorni a Cardiff dove era del tutto evidente che c'era la ferita aperta di quanto accaduto 2 settimane prima a Manchester, poi ieri sera insomma sono arrivate le notizie da Londra, però forse in questo momento io capisco che sia sottile il confine tra arrendersi e invece voler continuare a vivere la vita normalmente per non darla vinta. Però ragazzi, questa è oggettivamente, devo dirvi, un'impressione che dal pulpito privilegiato che abbiamo noi giornalisti io francamente avevo già ricavato durante gli europei nel 2016, dove io ve lo devo proprio dire, e anche per poi informazioni che uno su cui uno non può parlare, ma è stato un puro e semplice miracolo che non sia successo niente. Io vi posso dire che chi di dovere durante gli europei non aveva come pensiero evitiamo di che ci sia un attentato, era speriamo di riuscire a limitare il più possibile il numero delle casualità o il numero degli attentati, perché erano sicuri che almeno una cosa sarebbe successa. Non è successo, è stato un miracolo. Sì, detto non che non caso. Si può fermare tutto, Tancredi. Certo, ma non a caso è successo poi 4 giorni dopo a Nizza, perché non puoi fermare tutto, effettivamente, e forse viviamo, hai ragione, il confine è labile tra tra arrendersi e prendere prendere atto della realtà. Comunque sono discorsi molto più larghi, sono discorsi molto più larghi che riguardano le attività di c'è chi dice ad esempio a Madrid aprono il Bernabeu e vanno lì in 50.000 a vedere la partita, è un luogo più strutturato. C'è chi dice le piazze non vanno più concesse, e un altro amico ancora ha scritto: da quando in qua si può all'estero continuare a vendere alcolici quando ci sono adunate oceani. Beh, non tanto gli alcolici, però ragazzi, una cosa, nella fan zone di Parigi, ma come negli altri, ripeto, degli europei, ovvio, l'organizzazione più grossa, più capitale, quello che vuoi, però non è mai circolata una cosa che fosse di vetro, non è mai circolata una lattina che fosse piena e chiusa. Cioè, se in una fan zone dove ci sono 1 milione di persone, come erano l'anno scorso a Parigi per le partite della Francia, tutto è di plastica, tutto quello che gira. Sì, una ragione ci sarà, dici tu. Una ragione. Sì, è così. Forse è così, c'è stata così. Anche sottovalutazione di alcuni aspetti. Grazie, Tancredi. Torniamo sull'argomento. Grazie, Tancredi Palmeri. Abbiamo il traffico, però prima fatemi salutare Filippo Maria Ricci. Filippo, ciao. Ciao, Phil. Buon pomeriggio. Eccoti, so che sei a Londra. Sì, a proposito di città toccate, a proposito di città toccate, però dai, ci dici come la stai trovando? Londra un po' strana, per quello che oggi ho girato un po', quindi anche mezzi pubblici così, insomma si avverte, insomma è tutto, poi Londra ovviamente è enorme, sono mille situazioni, però è chiaro che queste cose qua cominciano a toccare nel profondo la città, la gente, insomma c'è preoccupazione, è quasi palpabile. Se non puoi più andare su un ponte perché magari arriva un furgone e cerca di metterti sotto, e poi se non ti è messo sotto scende qualcuno che ti vuole accoltellare, insomma. Sì, diventa complicato vivere normalmente. Ovviamente dopo le 19 c'è un'ora di speciale dedicato a Radio 24 con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti da Londra sulle vicende di ieri sera. Allora, noi ci teniamo Filippo Maria Ricci, invece traffico, e parliamo del Real Madrid e di Ronaldo. Vi leggo che cosa ha fatto Ronaldo negli ultimi 370 giorni della sua vita. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Que me gusta mucho jugar, una competición de Real Madrid, una competición que nos gustamos mucho y obviamente que estoy muy contento por bater el récord por primer equipo 2 años consecutivos y también el primer jugador 5 años consecutivos de ser el pichichi de la competición, muy contento. Nessuno ha fatto quello due volte. Io penso che abbiamo lavorato tanto per fare queste doppiette quest'anno. Il primo tempo abbiamo anche sofferto, poi la seconda parte fisicamente abbiamo messo un po' il piede con la palla, quindi abbiamo giocato un po' meglio e io penso che abbiamo, come si dice, meritato di vincere. Allora, gli ultimi 370 giorni di vita di Cristiano Ronaldo, 2 Champions League, un europeo con il Portogallo, un mondiale per club, una Supercoppa europea, una Liga, un pallone d'oro, un premio best della FIFA, un premio dell'UEFA, due titoli di capocannoniere della Champions League, 16 gol nel 2015-2016 e 12 gol nel 2016-2017. Cioè, di uno così, non lo so Filippo, cos'è che devi dire ancora? No, infatti non so più cosa scrivere, questo è il tema. Ma soprattutto non sono impressionati i numeri, quanto il momento in cui lui fa le cose. Fa le sue cose. Fa le cose. Quei 10 gol in 5 partite. È questo che ti impressiona, non tanto l'aspetto numerico che vabbè. No, ma ragazzi, questo è una montagna da sé. Filippo, in 12 mesi ha fatto il palmarès che ci sono intere società che non hanno, non hanno nell'arco di 100 anni. Io di questo anno, in realtà mi concentrerei soprattutto sulla seconda parte, diciamo, sugli ultimi 6 mesi, nei quali Ronaldo ha fatto un passo in più, perché lui tante altre volte aveva vinto, ovviamente non un europeo, però altre cose le aveva vinte. Quest'anno la differenza, lui ha fatto due cose: uno, ha accettato il cambio tattico e se ne fa il centravanti, per cui riducendo il raggio d'azione, diventando decisivo in area, no? E quindi da lì arrivano i gol pesanti, perché ricordiamoci che lui ha fatto 12 gol in Champions e, come dicevi tu, 10 nelle ultime 5 partite, cioè ha fatto 6 partite senza far gol. Lui ha fatto gol a settembre e poi è andato in letargo e torna a far gol in aprile, no? E si era beccato pure dei fischi dai Bernabeu. Esatto. Per cui, questa è la prima cosa, il cambio tattico. Il secondo è l'accettare finalmente di riposarsi. Perché io ho intervistato Casillas una settimana fa e lui diceva, ma noi glielo chiedevamo, noi gli dicevamo: Chris, dai, lascia aperta questa partita, non la giocare, dai, non è forza. No, voglio giocare. Dice, adesso gliel'ha chiesto Zidane, che è il nuovo re di Madrid. Esatto. Sì, però gliel'aveva chiesto anche Ancelotti, con cui aveva un grandissimo rapporto, gliel'aveva chiesto Mourinho. E che non è proprio, diciamo, non è che gli manca personalità. Quindi tu dici che sente un po' il passare degli anni anche Ronaldo? Certo, ha deciso lui, non è che, voglio dire, è chiaro che Zidane è importante, Zidane forse ha trovato la maniera di saperglielo chiedere, però la decisione finale la prende Ronaldo ed è una decisione fondamentale, perché lui è arrivato, lui ha giocato, cioè, rispetto all'anno della decima. Lui è arrivato con 600 minuti in meno di Liga, sono importanti, perché non lo poteva fare anche allora. E lì, nella finale dell'anno scorso, la finale di 3 anni fa, era cotto. Certo. Sì, l'anno scorso ha segnato il gol decisivo, il rigore decisivo, però dopo una partita... No, ma anche agli europei era cotto, anche agli europei era cotto. Esatto, anche quello che alla fine si è fatto male, insomma. Esatto. Sì, però è anche vero che con l'Ungheria il Portogallo lo tiene vivo lui. Sì, ma no, ma Giovanni però è, sì, però l'Ungheria è arrivato anche, bollito. L'Ungheria non è una grande squadra. No, non è una grande squadra, però se torniamo indietro di un anno e arriviamo a quel girone lì, è un po' come l'Italia dell'82, c'è un bivio, da una parte c'è la strada che poi ti porta alla gloria, dall'altra c'è la solita delusione, il solito fallimento, e quel bivio lì decide lui dove si va. No, certo, ti dico, però quest'anno, cioè, non è solo il fatto che abbia vinto, ma che io non devo giocare così dai tempi di Manchester. Cioè, sfido chiunque a tirarmi fuori un Ronaldo tanto importante, tanto decisivo, perché l'anno scorso lui, sì, come dici tu, lui fece 3 grandi partite con la Roma, col Wolfsburg, quando avevano perso 2-0 e vincono 3-0, e con l'Ungheria. Questo però era stato un po' i suoi grandi momenti. Quest'anno è stato decisivo sempre, cioè negli ultimi 3 mesi, certo. È stato importantissimo, fenomenale. E questo, cioè, e soprattutto io non lo vedevo giocare così bene, dico, da anni, dai tempi di Manchester. Però io, era molto più giovane. Scusate, io allargherei un attimo il discorso da Cristiano Ronaldo al Real Madrid, perché in questi giorni, in questa lunga vigilia che ci ha portato alla partita, devo dire che Filippo Marrarici c'è stato... È il nostro ombre, no? È stato il principale pompiere dell'ottimismo juventino. Perché quando si diceva la Juventus va con tanta, sembra l'anno giusto, a tutti quanti sembrava l'anno giusto, e Filippo giustamente diceva attenzione, il Real si sta preparando come si deve. Queste partite sono il pane quotidiano del Real Madrid, soprattutto da un lato una squadra che aveva l'ossessione, dall'altro lato la squadra che giocava l'ennesima finale per l'ennesima Coppa. Guarda, io dico una cosa, è un altro malissimo. Perché sì, io facevo il pompiere tutto, però ci speravo, e speravo per il calcio italiano che fosse veramente, eravamo al bivio. Tu prima, no, Giovanni, hai parlato di bivio, quello di ieri era un bivio per il calcio italiano. Poi lo so che tanta gente è contenta che la Juve perde, vabbè, ma a me non me ne frega assolutamente niente, no? Io ragiono in altri termini, era un bivio per il calcio italiano, e purtroppo veramente abbiamo preso, cioè, non so se è un bivio cieco, però insomma una stradina buia, brutta, perché cioè, la Juventus sta dominando il campionato da 6 anni, e 2 anni fa arrivare in quella finale erano contenti così, ed è stata più vicina alla vittoria 2 anni fa che ieri, e questa io la sicurezza che mostravate voi che a me piaceva, dico, ci speravo, speravo che avesse ragione voi, perché era importante dare un segnale anche a livello europeo. La Juventus è l'unica squadra che è riuscita ad arrivare alle finali no, delle ultime 400 e non si è fatta le spagnole. Allora mi aspettavo qualcosa in più. E invece purtroppo siamo usciti, non usciamo mai. Invece abbiamo capito che manca ancora un pezzo di strada a fare. Aspetta che coinvolgo anche Fabrizio Ravanelli. Fabrizio, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Manca ancora un pezzo di strada a fare per essere il Real Madrid, o è tutto casuale quello che è successo e che stiamo cercando di capire? Io non ho ancora esattamente capito cosa è successo ieri. Fabrizio, da allenatore, l'ha capito che cosa può essere successo, perché è dal mio punto di vista inspiegabile. Ma guarda, è difficile dare una spiegazione su tutto, si può stare mille idee, mille pensieri, si può dire che la Juventus ha voluto forse fare la partita dall'inizio del primo minuto, mentre magari la squadra juventina aveva abituato sempre a lavorare bene sull'avversario e quindi aspettare per ripartire, magari ha sciupato talmente di quelle energie psicofisiche consapevoli di poter battere il Real subito dall'inizio facendo la partita, e poi magari si è trovato un secondo tempo dove sono venute a mancare non solo le forze mentali ma soprattutto anche quelle fisiche. Ci sta che loro ci possono aver messo in difficoltà con il loro centrocampo a rombo, con Casemiro che era subito pronto a andare a raddoppiare e andare a portare pressing a Dybala, con Isco che era tra le due linee, tra centrocampo e attacco, e quindi la Juventus faceva fatica a marcarlo. Ci possono stare tante situazioni e sfumature che possono essere tutte giuste, però credo che poi alla fine non si riesca veramente a trovare una motivazione per quale motivo la Juventus nella finale non è riuscita a giocare il suo vero calcio, per il modo, aveva fatto più che per il risultato. Un percorso netto, aveva battuto il è arrivato in finale senza mai perdere, quindi credo che aveva dato dimostrazione comunque che questa squadra era in netta crescita, soprattutto anche a livello europeo, che negli ultimi 3 anni ha fatto 2 finali, ha perso 1/4, abbiamo visto tutti come, quindi dispiace perché onestamente pensavamo tutti che, non dico che avremmo vinto sicuramente la Coppa, ma che forse se dovevamo perdere non avremmo perso mai così. Sì, è un passo indietro. Allora, io saluto Filippo Maria Ricci, che tanto ciao, risentiremo abbondantemente. Grazie Filippo, ciao. Ciao. Grazie a voi, ciao. Domani. E anche per capire se adesso Zidane ha carta bianca perpetua, perché a Madrid cambiano idea molto in fretta sugli allenatori. Del mondo. Oh, invece approfittiamo di Fabrizio Ravanelli, perché la domanda che poi da ieri sera aleggia, e Agnelli ha detto torneremo più forti, arrabbiati di prima, Allegri ha detto da domani si lavora per tornare in finale di Champions League. Io però la butto lì. Secondo me tutto questo significa che la Juventus, come del resto è stata bravissima a fare anche in passato, deve fare scelte anche dolorose, o no? Tipo? Per ripartire, ma non lo so, tipo mi viene in mente che servono 2 centrocampisti e non uno, perché forse Marchisio non è più quello di prima, e forse va fatta una riflessione dietro tra Buffon, Barzagli e Chiellini, forse Mandzukic ha finito questo periodo da ala e il rinnovo è da seconda punta, nel senso da alter ego di Higuaín. Non so come la pensa Ravanelli. Ma no, ma ci possono stare tutte queste considerazioni, perché sono considerazioni comunque molto molto giuste e plausibili, però io credo che la Juventus è abituato sempre a saper ripartire dopo ogni sconfitta. È una squadra che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, anche nelle sconfitte, quindi questo ha dato testimonianza alla storia, lo dice, non lo dico io, e quindi credo che farà come si dice, necessità virtù, nel senso con questa sconfitta riuscirà secondo me a far capire forse se ci sono delle problematiche, con la bravura del presidente, del mister e della società, a riuscire a colmare questo gap prendendo magari non solo un giocatore ma magari 3 o 4 giocatori che possono aggiungersi ai nostri senza cedere nessuno, perché noi dobbiamo avere comunque una rosa ampia per poter riuscire a lottare su tutti i fronti e arrivare a una partita come questa con la massima condizione e non ricorrere sempre agli stessi per giocare sia in Champions, sia in campionato che in Coppa Italia. E quindi avere una rosa talmente ampia di poter gestire un po' tutte le forze, perché abbiamo visto comunque che il Real le ultime partite ha fatto riposare Ronaldo, proprio con Ronaldo. Bisogna capire che per affrontare una partita come... Allora, aspetta che vediamo, c'è tempo per recuperarlo? Non credo. No. Allora, comunque era chiaro il discorso di Fabrizio Ravanelli, adesso lo contattiamo per ringraziarlo, cioè bisogna capire che bisogna anche rinforzarla questa rosa. Leggo due messaggi: la Juve non paga ingaggi da 15 milioni di euro, cioè giocatori che cambiano le partite. Roberto da Belluno, un altro invece scrive: bisogna smetterla di parlare di fatturati per spiegare le sconfitte, non bisogna commettere l'errore che fanno tanti in Italia quando cercano di discutere della superiorità della Juventus. Antonio da Grosseto, Antonio. Sì, buonasera. Vai. A voi. Dunque, per quanto riguarda l'aspetto prettamente sportivo, devo dire che da anni stiamo esaltando un po' troppo il calcio italiano e la qualità del calcio italiano è abbastanza evidente, è medio-basso. La Juventus forse è l'unica squadra che riesce a stare a livelli discreti, notevoli. Per il resto abbiamo visto quello che stanno facendo o che hanno fatto Roma, Napoli, per non parlare del milanesi. Io sono tifoso del Milan, quindi voglio dire, il tempo è passato, i tempi della gloria del calcio italiano sono ormai trascorsi e non sono ancora ritornati. La Juventus ieri ha perso perché è l'unica squadra di caratura e di livello internazionale, ma non all'altezza delle squadre che poi riescono a portare il trofeo a casa, sì, al centrocampo, sì, della, sì, Juve. Per, sì, secondo me a parte di non enfatizzare, no, questa cosa, no, è un discorso generico. Certamente il calcio italiano ha bisogno di una Milano forte, credo che Milano tornerà forte. Sì, va bene, però anche il Barcellona fattura il doppio della Juventus. Ma sì, Giovanni, però non è anche che Real Madrid è due anni fa in semifinale fatturava il doppio della Juventus. Non poi è che invece è tolto fuori il campionato inglese, no, perché sennò in Francia, stiamo sempre qua. In Spagna, nella stessa Spagna ci siano al di là delle corazzate ci siano delle squadre di fenomeni, cioè, ma infatti, ma se noi passiamo un anno a spiegare che i soldi non dicono tutto, non possiamo oggi, perché ci fa comodo a chi chiama, i tifosi della Juventus ad esempio, no, Antonio che gli ha detto essere tifoso del Milan, però non possiamo spiegare tutto con quello. Diamo 30 secondi a Francesco, dai, poi ci fermiamo. Francesco, buonasera. Niente, io volevo dire, innanzitutto non bisogna perdere di vista il fatto che, insomma, io guardo le partite, ho giocato a calcio e posso dire che ieri sera Real Madrid ha fatto una grandissima partita. Se parliamo di Cristiano Ronaldo, vorrei puntualizzare e dire cosa ne pensate di come ha giocato Isco. Isco è un giocatore, secondo me, che ieri ha fatto una partita, sì, sì, straordinaria. Ha fatto una stagione straordinaria. Quella di ieri sera è stata la 42esima presenza di Isco in questa, esatto, stagione. Quindi, detto tutto, non dimentichiamo un titolare. Questo. Allora, io sono un grande tifoso interista, però devo anche dire questo, che avrei scommesso tutti gli ultimi soldi che ho sul fatto che vincesse la Juve. Perché la Juve l'abbiamo vista forse giocare. Questo è stato il peccato originale di questa esperienza di Cardiff. Io continuo ad essere convinto che il peccato originale sia proprio... Vai, Francesco. Allora, però vorrei anche dire questo, e vorrei con questo riesumare un po', anche perché ho molti amici, cari, fratelli, la mamma juventina. Quindi dai che dobbiamo andare in pausa, Francesco. Sì, ma partecipavo con loro e dico una cosa. Un po' meno di ossessione del triplete. Un pochettino più di tranquillità, un pochettino più di serenità e affrontare queste grandi prove anche con, perché la tensione ieri secondo me è stata decisiva, non sono così scarsi, non hanno bisogno di grandissimi. Vabbè, ma quando poi arrivi lì, insomma, ci sta che ti prenda quella che tu chiami ossessione per il triplete, insomma, non capita sempre di arrivare a una partita da farlo. Non pronunciamo questa cosa che la gente ha reiterato in una maniera incredibile, non andava pronunciata, una porcata. Posso dire una cosa agli odiatori della Juventus? Ma chi è che odia la Juventus? Odiatori c'è nessuno, della Juventus, c'è chi magari vi dispiacerebbe festeggia andare a fare in no, culo? No, torniamo subito. No, non si può. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. tutti convocati. Questa serie è sempre stata totalmente nelle mani della Dolomiti Energia, che festeggia giustamente con i fischi del Forum di questa Olimpia che chiude questa annata con tantissime ombre e poche luci. È finale per la Dolomiti Energia a Trentino, è finale. Giocando una serie molto bella, giocando una serie molto solida, giocando partita per partita, cercando di essere sempre al top, perché per vincere con Milano bisogna essere al top, bisogna forse anche sperare che Milano non sia al top, ma essere in condizioni di non renderla migliore. E credo si possa parlare anche di Trento, che ha vinto una bella serie. E possiamo anche parlare dell'altro 4-1, non c'è solo il 4-1 del Real con la Juve, c'è anche il 4-1 di Trento con Milano. Mario Boni, ciao. Ciao Marione. Ciao ragazzi, buongiorno. Ti voglio bello carico. Innanzitutto, quanto hai goduto ieri sera? Tanto. Devo dire che se il primo gol di Cristiano ho avuto un attimino una scossa, poi il pareggio, gol strepitoso di Mandzukic, e poi devo dire che il secondo tempo non c'è stata storia, insomma. Avete dilagato. Abbiamo che cosa? Abbiamo che cosa, che sei arrivato settimo. Non è politicamente corretto, però devo dire che interista nero azzurro con i fratelli italiani abbiamo goduto per tutti gli interisti, dai, inutile stare. Tanti italiani ieri sera tifavano la Juve perché era importante, ce l'ha spiegato prima Filippo Maria Ricci, che ci vede con gli occhi saggi di chi sta fuori, e dice metà, ma è così, no? Noi italiani siamo fatti così, ma anche in Spagna immagino che tutti i tifosi del Barcellona ti fanno sabato mattina i due giornali catalani avevano come prima pagina Forza Juve e Forza Dani Alves. Sono anche meno politicamente Forza Juve e Forza Dani Alves, meno politicamente corretti di noi, più realisti. Senti, poco corretta politicamente, a proposito dell'Olimpia Milano, mi devi mettere in fila i colpevoli del fallimento, tra la società che non sceglie un uomo forte, che assomiglia un po' all'Inter, questa cosa, poi l'allenatore che se ne andrà e i giocatori che hanno deluso più o meno tutti. Ma guarda, in fila cominciamo dalla società e dalla capacità di fare squadra. Hanno scelto, adesso non so se sia stato Prodi o Portaluppi, in ogni caso, quando tu prendi un giocatore così criticato come Radulica, che a me non dispiace, però dipende con chi lo accoppi. Vediamo Radulica nella nazionale serba, quando gioca con Teodosic ha un certo rendimento, quando gioca un playmaker più veloci, che fanno la corsa e il loro modo di giocare, è più in difficoltà. Poi le critiche immediate a Hickman, a me è un altro giocatore che piaceva molto e piace molto, è Hickman, sebbene tutti non abbia fatto sicuramente un buon campionato. E poi l'altissimo numero di ali piccoli in squadra, ha preso da Simon, da Gentile, da Fontecchio, Abbas, Sanders, mancavano lunghi, prima di tutto dinamici, un 4 altrettanto dinamico, grande tiratore. Questi peccati di una Milano che ha speso tanto e non ha ottenuto nulla. Quindi scusatemi, mi state dicendo che adesso mandano via Repeja, ma del resto quando si fallisce una stagione è difficile restare, ma non è che il problema si risolve, cioè non siamo arrivati al cuore. Repeja ci ha messo del suo, perché penso che abbia contribuito nell'avallare una campagna acquisti che è stata anche a livello di Eurolega tra le disastrosa, ma dispendiose. Perché Milano ha speso tantissimo anche a livello europeo, cioè confrontata con altre squadre europee. Aveva il budget più alto dell'Olympiacos, aveva il sesto budget dell'Eurolega, quindi un budget molto alto, ha sbagliato la squadra, quindi anche le 10 sconfitte consecutive, l'ultimo posto è stato era già una delusione, adesso vergogna, però il fatto è che era in un campionato così non è tollerabile da una squadra che spende adesso non so quanti milioni di euro, 19 milioni di euro, per avere una squadra che non è squadra, con i ruoli sbagliati e che con giocatori che giocavano bene in determinati contesti e non con altri. Quindi l'allenatore ha le sue colpe, però sai bene che la testa, il pesce puzza dalla testa, quindi anche altri devono fare l'esame di coscienza. Ti piace l'idea di Pianigiani? A me piace, perché criticatissimo Simone Pianigiani, criticatissimo nonostante abbia vinto scudetti importanti con Siena, è un allenatore bravo, è odiato in Italia, ma io lo prenderei, secondo me è una buona scelta, sarebbe una buona scelta. E ti riprenderesti anche Gentile? Oggi leggevo qualcuno dice va riportato dentro, gli italiani vanno riportati dentro, è stata una follia in questi anni allontanarli. Ma guarda, il... Ma sai che mi... tutti questi discorsi mi ricordano l'Inter. C'è anche Mario. Ma no, ma guarda che... Ma guarda che... Sì, io voglio girare il coltello nella piaga. C'è un altro parallelismo, ascolta, ma Mario, c'è un altro parallelismo. Allora, tutti, io credo che in contesti diversi, in situazioni diverse, anche quelli dei giocatori attuali dell'Inter non siano dei cagnacci come sono sembrati. Ma Carlo, io ti dico solo questo. Hai mai visto in una squadra, non dico di Serie A, non dico di Serie B, di C, di interregionale, che due giocatori quale João Mario e Gabriel Barbosa lasciano la panchina dopo la terza sostituzione? Pensavo parlassi di Gentile. Una cosa vergognosa. Gentile a me è un giocatore che piace, può aver avuto dei problemi, può aver avuto dei problemi all'interno della società, non lo so, però è un giocatore da riprendere, da restituire al basket italiano. È un giocatore ottimo, che ha fatto vedere ottime cose, poi sbaglia, ha avuto una stagione negativa, ha fatto male sia al Panathinaikos sia alla Poel di Gerusalemme, però ecco, io lo riprenderei. Te lo riprenderesti l'anno prossimo. Lo riprenderei. Ripartiresti anche da lui, magari con Pianigiani si intende meglio, come è stato, già, come è allora, stato già. Io prenderei, chiaramente l'allenatore lo prenderei o Trinchieri o Pianigiani, fermo restando che Messina credo che rimanga nell'NBA, non lo so. Poi un nucleo ce l'hanno già importante, perché gli italiani ci sono, Abbas, Fontecchio, c'è De Pascolo, c'è Cinciarini, quindi buone individualità ci sono già. Il fatto è che devono avere le idee chiare chi fa la squadra, perché quei soldi non possono essere buttati. Ma Milano merita una grande squadra. Chiaro. Grazie Marione. Ciao Marione, a presto. A voi. Ciao, buona giornata. Grazie a Mario Boni, parole sante. Noi abbiamo preso nota di tutto. Carlo Genta, lo ritroviamo domani. Dopo il GR delle 14. Complimenti vivissimi per la trasmissione. Sì. Volevo dire non l'abbiamo invitata, però. Ma io volevo dirvi la mia. Però è un contributo interessante. Infatti, Genta se ne va, non vuole ascoltarmi. Allora, il crollo della Juventus. Ecco, perché, io ho una mia teoria. Ecco, la spiego esattamente. Anche perso delle partite. Però... Allora, l'esempio paradigmatico, che non so cosa vuol dire, ma mi piace un casino. Che significa concreto. L'esempio paradigmatico è Higuain. Higuain ha un problema. Sì. Mangia un casino. Ma non è vero. Dopo il gol di Casemiro, la parte del cervello preposta all'inibizione della fame viene lesa irreparabilmente. Higuain incomincia a sentire un forte odore di spezzatino. Ma non è vero. La frustrazione di non poterlo gustare fa sì che subentri la demoralizzazione, non si riprende più. No, ma io non credo sia questa la spiegazione. Poi c'è una seconda spiegazione. Sì. Ecco, la seconda è un altro esempio paradigmatico. Sì. Poi vado a vedere cosa vuol dire. No, ma te l'ho già spiegato. Cos'è? E Cuadrado. Dopo il terzo gol, ha giocato pochissimo. Ecco, però è fondamentale. Sì. Perché dopo il terzo gol del Real, lui entra in campo, ma oramai la parte del cervello preposta all'inibizione della sete viene inibita. Ma cosa c'entra? Perché infatti Cuadrado si beve il cervello. Vabbè, abbiamo capito che non hai capito niente neanche tu, ma del resto nessuno ha capito. Cosa poi è successo ieri alla Juve? No, adesso c'è il traffico. Ah no, Asensio. Traffico. Pensavo Malva. Salvia. Tutti convocati. Tutti convocati. Ti vedremo presto in Italia? No, sicuramente no. Vorrei continuare qua, vediamo cosa succede, però. È difficile. Ah, è vero che il Milan insomma ti ha cercato? Non so, io l'unico che posso dirti è quello che leggo sul giornale. Mi piace Italia, ma sono contento qua e questa è la mia città, la mia squadra. La Juve è la seconda casa mia, non si sa mai, no? Oh, adesso che ci siamo tolti anche la finale di Champions, finalmente abbiamo 3 mesi per parlare di mercato. Sandro Sabatini, ciao! Ciao, inizia il momento più bello dell'anno, dai. Via questi dettagli, le partite, le coppe. Inizia il momento dei sogni, no? Che poi giugno, luglio, agosto, dal primo di settembre si scontrano inevitabilmente con la realtà, iniziano a fare i conti con la realtà. Certo. Però, il bello di questi mesi è che vincono tutti in questi 3 mesi. Poi dopo succede il resto, c'è quel piccolo dettaglio del campo. Allora, Sandro Sabatini, da domani anche Premium riparte con tutta la programmazione dedicata al calciomercato, ovviamente. Ma fammi capire, Morata diceva vero oppure, come ha detto Perez dopo, vediamo, vorrei tenerlo però non so come va a finire. Ma guarda, quello che risulta a me, insomma, a Bargigia, agli esperti di mercato di Premium, Morata, attraverso chi cura eventualmente il trasferimento in Italia, non avrebbe chiuso all'ipotesi Milan. Certo che ieri con quelle frasi un po' l'ha complicata, non tanto nel classico sto qui e sono di Madrid, sto al Real Madrid e quindi non penso di tornare in Italia. Semmai l'ha complicato il trasferimento al Milan dichiarando mi dispiace per la Juventus, la mia seconda squadra è la Juventus. Certo. Quindi, ecco, non mi sembra una frase detta così a caldo, in campo, in preda, diciamo così, alle sensazioni che erano evidentemente contrastanti nel suo cuore, ma d'accordo che poi il Milan l'anno scorso ha avuto Mihajlovic come allenatore, che tempo addietro aveva dichiarato che non avrebbe mai allenato il Milan, però insomma è stato un pochino ingenuo o estremamente sincero Morata, e quindi ha comunicato in Mondovisione un no che probabilmente ha sorpreso però i dirigenti del Milan. Io credo però che Fassone e Mirabelli passino sopra la questione della fede juventina di Morata, se davvero c'è la possibilità di portarlo, perché sarebbe la ciliegina sulla torta. Questa è la settimana di Riccardo Rodriguez, intanto, in questa escalation rossonera. Domani dovrebbe fare le visite, se non sbaglio. Morata assolutamente, non cerchiamo di non essere infantili, ecco, nel prendere certe dichiarazioni comunque come se fossero scolpite sulle tavole. Insomma. Altrimenti dovremmo credere che Donnarumma resta sicuramente al Milan. Ma è quello, anche quello, guarda, io non lo so, penso che alla fine sia la cosa più probabile, sia la situazione più probabile, anche se è ancora una situazione tutta in divenire. Mi sembra che il mercato del Milan comunque si intuisce anche da quello da come stiamo parlando adesso sia quello più vivace, anche se sono curioso di vedere come scatterà il mercato dell'Inter, del Napoli e poi anche quello della Juventus, perché credo che il responso della partita di ieri sera sia anche un invito a pianificare, non dico a riflettere, perché poi insomma la Juventus ha concluso una stagione sicuramente eccellente, sicuramente super, sicuramente voto 9,5. Però è comunque inevitabile, dopo la partita che avrebbe sancito il triplete e che invece ha sancito il secondo posto in Champions League, è inevitabile riflettere perché poi e attuare il piano che in qualche modo era stato prefissato anche prima, credo. Ecco, insomma, in questo senso l'Inter del 2010 fa scuola, penso. Sì, che sbagliò tutto da questo punto di vista. Ma se Szczęsny va alla Juve, come sembra, è per fare il vice di Buffon o perché dobbiamo aspettarci qualche sorpresa? E poi, sotto questione, il Napoli resta con Reina? Ma guarda, non credo che il Napoli resti con Reina, perché mi sembra che sotto Reina e De Laurentiis debbano chiarire qualcosa. Ecco, questo mi sembra che sia evidente. E che qualcosa che si sia incrinato, poi non so se per la battuta infelice nella scena di festa di chiusura della stagione, oppure perché Reina è un po', insomma, lo spin leader forte, il sindacalista anche dello spogliatoio del Napoli, e questo magari a De Laurentiis può dar fastidio. Io credo che ci sia comunque un chiarimento nell'aria tra i due, e solo dopo questo chiarimento sarà possibile ipotizzare il futuro di Reina, evidentemente, eventualmente ancora a Napoli, dove lo vorrebbe trattenere Sarri. Poi per su Szczęsny, io guarda, le voci lo danno molto vicino alla Juve, sì. Alla Juventus, sì. Se questo significa che farà il secondo con Neto che andrà a giocare, oppure se sia veramente un battesimo come erede di Buffon con passaggio di consegne graduale già nella prossima stagione, sinceramente non lo so. Io faccio fatica a crederlo, ecco, col mondiale alle porte. Abbiamo ancora 30 secondi. Mi dici se Di Francesco sta rischiando di perdere la Roma? Non il contrario, Di Francesco sta rischiando di perdere la Roma? Il Sassuolo non fa sconti sulla clausola a 3 milioni, come è giusto che sia, esercita un proprio diritto il Sassuolo nel far rispettare questa clausola. Quindi non credo che Di Francesco perderà la Roma, anche perché la Roma non credo che abbia tante alternative all'altezza di Di Francesco, però deve entrare la Roma nell'ordine di idee di investire 3 milioni per liberare Di Francesco al Sassuolo. E col Sassuolo è difficile trattare. Grazie Sandro, a domani. Ciao. Allora, ci troviamo. Certo. Mi dici gli orari? Dunque, dalle 20 alle 21 e poi dalle 22:45 a mezzanotte. Facciamo due fasce. Grazie Sandro, sì. Sabatini. Ciao Sandro. Paolo da Ravenna, Paolo. Sì, buonasera. Vai. Mi dispiace che non ci sia più Sabatini, perché volevo un attimino, tra virgolette, contestare questo 9,5 che sia lui che Panucci ieri sera hanno dato alla stagione della Juve. Sì, che voto gli dai tu? A mio parere una stagione senza nessuna rivale. Perché quindi che voto gli dai? Dammi un voto. No, un voto ad oggi è, non raggiunge la sufficienza. È sotto la sufficienza il voto della stagione della Juve? Sì. Hanno una Serie A paragonabile a una serie un poco più di una Serie B. La seconda ha fatto 87 punti. Sì, assolutamente. Ma con Crotone, Empoli, sì. Pescara, Palermo, che non sono squadre della Serie A. Crotone si è salvato. Crotone si è salvato. Il dottor Capuano, sì, assolutamente. Perché le altre tre facevano pena. Si è salvato anche il Genoa, sempre certo. Questo, che è un'altra squadra da 0-0. Ci ha messo comunque. Il cammino in Champions League, hanno fatto un girone da Europa League, poi hanno incontrato Porto, Monaco e un Barcellona con Busquets qualificato, Luigi Enrique che lascia Jordi Alba in panchina. Io credo Paolo, che ci sarebbero squadre che pagherebbero per avere una stagione come quella della Juve, e andare sotto il 6 mi sembra troppo, anche 9 è troppo, secondo me. Persa così la finale, puoi prendere 8. Però chiedo scusa a Raffaele da Roma, non abbiamo più tempo, io mi fermo, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleoni, Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia, il nostro Andrò Mercù con le sue voci. E dai! Noi ci sentiamo domenica alle 17, come tradizione. Ciao! Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!